dice, beh, la notte mattino, ho dovuto mettere la il coso, mi dice, io l'altro me lo cucinando, figurati, abbiamo dovuto mettere un bel olio. La piastra elettrica e il caldo che c'era fuori, beh, mi stavo schiumando, ho capito. E quando è così, se bevi vino è peggio, perché allora ti collassa forte. E che ho visto un sacco di persone quando, va bene, quello d'inverno, non d'estate, ma d'inverno è più pericoloso, quando stai cucinando e ti metti a bere il vino nel caminetto, come esci pure dal coso, che cambi subito dal caldo al freddo, ti crepa il vino. E quindi quando si cucina di solito io non bevo quasi mai, anche per questo motivo qui. Posso poi arrivare dopo che ho mangiato, vivo e bevo tranquillamente tutta la sera e non mi succede niente, però è brutto, brutto, brutto proprio, quando, perché ti dà ancora più caldo l'estate. Ma bisogna fare la sera, capito? La sera al fresco bisogna fare queste cose, capito? Perché durante il giorno, guarda la frase, ma scherzando, questo caldo che sta facendo non viene bene. E ci sta male, capito? Col fuoco davanti, per carità. Conviene la sera, perché magari la sera si rinfresca di più e tutta un'altra cosa, capito? Magari la prossima fate la sera che viene. E penso che sia così. Così a Toello Paracula non riprende. Riprende tra Giuseppe. Già me la riprendo. Pomponia, dimmi, sono qua, dimmi. Ti ha chiamato quello, no? No, adesso sei stato già con lui, non mi ha chiamato. Adesso dopo, quando viene mia madre, devo andare a ricaricarmi il telefono, così lo chiamo stasera e vi faccio dare un po' di roba. Ma adesso sono passate e si è quasi consumato tutto, quindi mi faccio vedere questo che mi deve dare piano piano, piano sta andando. E ciao, là sono sotto la benzina, eccomi, e lo sapevo che rompevo le palle, e lo sapevo, la benzina. Metti il pieno, non mettere 5 euro, se no ti frega sempre. Avanti Roberto. Sono sotto casa. Adesso dove vicino, ne hai uno qui davanti, di rifornitore, ce la fai giusto. Dimmi Roberto. Ma dove abiti? Non ho capito Roberto. Dove abiti adesso? Dove abitavo una volta, abito. Sopra di mamma sono io. C'era anche una piazzata. Dove sei venuto a ritirarti l'antenna una volta, mi pare, sì. Sono andata, mi sembra che cose qui da Carlo Felice là. Oh, non mi avevi dato questo servizio, sono stato là, non sai più di là. Oh, io già due anni che sono andato via, sono vecchio, ma meno male, mamma mia, non ne potevo più stare lì, no. Ogni volta dove vera. Ne ho sofferto io il freddo. Figurati, pensavo di stare in una caverna. Allora sei di là da tua madre? No, non sono a casa di mamma, sono sopra a casa di mamma, l'ultimo piano, l'appartamento mio, quello è proprio. Però dove sapevo sempre io, di là? Meglio, di là, Qua dove venire, vieni, già sono qua. C'è scritto anche il nome mio nel campanello, non mettete problemi. Quando vuoi salire, c'è il tuo ricco di portone. E l'altro giorno ero lì al bar, ero. E guarda, perché non sei salito? Già l'hai vista l'antenna, la mia 27 lì piazzata? No, non ho visto niente, ero con degli amici lì, sono andato via al bar, però non pensavo che lì. E perché te l'hai visto, potevi venire. Già sono sempre qui, siamo venuti una cosa almeno. Quando vuoi vieni, non ci sono problemi. Esatto, adesso dai, si passa, si sì. Siamo qua comunque, ci avessi Giuseppe è andato a rifornire. Giuseppe, rifornito hai? No, negativo, sono stato a casa tua. Se mi offri il caffè sto salendo, se no me ne sto andando. E sai che mi metti i pantaloni se mi tocca violentarti perché sono in mutandine. Che capo, dai. Poi la tua povera mia torre, zio Chissu e... Ciao per te. Zio Chifucci. gaffa Giovanni, no, se mi offre il caffè sto andando a casa sua, se no pazienza. Sali, sali. Vabbè. Gaffa. Vabbè. Sì. Ok, ma tu pure sei salito da Antonello? No, io domani ci vado. Lascialo lavorare alle vicino. Quello si sta vestendo perché era lungo. Ci avrebbe fiorentato. Io lo conosco da tanti anni adesso, l'ho sempre visto mutate. Che è tempo che sei un utumi, ma un gorilla pari. Sei anche vestito, eh? Che te lo perdere va? Tu sei? Ehi, se sei già sceso, se ne fresse. Dove sei, Robè? Dimmi dove ci siamo un controllo di radio, vai. Ah, radio buona, buona. Io sono al monte, ma sono in macchina, con un antenino piccolo. Ecco, sei 9:20, già stai uscendo bene anche tu, dai. Sono un attimino piccolino, piccolino sulla macchina forse, poi ci sono anche palazzi qua alti e non mi metto tanto bene. Ebbene, lo sa, ti seguo un attimino, fai benissimo, sei 9:20 qua, io sono sulla Budibudi per immaginarmi. Ah sì, no, sì, da. Forse per quello allora, sì, sei 9:20, va bene, dai. Vediamo un po', Giuseppe. Ah, aspetta, Tonello, recito di sì, ancora indaffarato, Ti ricordo di me? Sinceramente non mi ricordo, illuminami, dai. Bandito? Sì? Non ti ho capito. No, ho capito, allora, ti ripeti. Bandito? Bandito? Yes. Non è nuovo questo nome. È senz'altro che non parla ma da tanto tempo. Un casino di anni. Allora, già siamo parlati altre volte, ma in verticale non ci conosciamo. Lo sai che non me lo ricordo questo, perché tanti anni, non mi ricordo. E ogni tanto già qualcuno già si fa sentire, dai. Io ci sono più o meno quasi quanto adesso qua in frequenza. Ah, e allora sono parecchi anni, ma avevi smesso però. Sì, io da tanto. È per quello che non ti avevo sentito da tanto tempo, non ti sentivo. No, io ci sono sempre. Sembra che abbia passato 50 anni, io ti puoi immaginare, in frequenza. Sì, poi io sono, non abito più qua, abito a Modena, sono già 12 anni a Modena. Ah, ecco perché. Ecco, però allora sei in ferie qua, vuol dire? Ecco, no, capito, ma c'hai parenti tuoi qua, no? Sì, tutti qua, parenti, familiari. Ok, capito. Allora sei con la famiglia, così è? Sì, sono a casa dei miei genitori qua. Ah, ecco, ho capito. Beh, e com'è la frequenza in quelle zone? Non ne sarà come qua, morta, no? E lì ce ne sarà gente, magari? No, dico il contrario. Lì a Modena non c'è nessuno. Addirittura? Modena, è una zona... Non è tanto Modena, ma è una zona abbastanza buona anche per i collegamenti, se non sbaglio, non mi ricordo più, Ah, sai così, che a Modena la gente magari sta più che altro in giro, di qua magari ci sono meno soldi, la gente sta più a casa, quindi capito, ci sono più gente a guardare forse per quello. E tanti fattori ci sono, anche qua ce ne sono pochi, ma prima era piena, e adesso ce ne sono pochi invece. Io mi ricordo che certe volte 40 canali era tutto pieno, vedi, oggi, tutto vuoto. Lo so, ci sono stato pure io quando era bello pieno di gente, quando sono qua a Monte. Infatti c'erano parecchie. E adesso il fatto che il computer, le telefonine, è tutto cambiato la questione, capito? Per cui hanno altre cose da fare più importanti, capito? A Parigi, perché magari usano ogni tanto, capito? Così che c'è altre cose da fare più buono del baracchino, capito? E il computer ha mangiato abbastanza, ormai viene non più computer a casa. Che appassionato, io ce l'ho sì, lo uso, ma poco e niente, poco. Magari so dire che molto per stancano gli occhi, così che lo mollo, e dopo magari sono 2 o 3 giorni che non lo tocco nemmeno. Dipende dalla passione, capito? Uno magari fa una passione sul computer e fa certe cose e niente, passa tanto tempo lì, e uno magari passa più baracchino e altro. Infatti, è così infatti. No, io preferisco più il baracchino che il computer, veramente. Sai cos'è? Perché Sandro ti viene molto impegnato il computer, capito? E per cui mi fa male, mal di testa, se sono più di 10 minuti fa mal di testa, per cui mollo subito per quello, mentre invece il baracchino, se trovi la compagnia buona, sai anche delle ore, non ti sa che mai. Lo so, dipende da come le prendi le cose. Io ci lavoro abbastanza con il computer, quindi non mi accorgo neanche più quanto tempo faccio. Faccio un'altra di quelle ore lì. E anche quello è vero. Anche quello è vero. Ma oggi più o meno si vanno quasi tutti, per cui chi c'ha la passione che si tiene. Passa molto tempo, ma molto tempo al computer che all'apparecchio, al baracchino. Come faccio io, sai? Io ci tengo più al baracchino che al computer, non ripeto, mi fa male di testa, ecco, mi piglia gli occhi, per cui più di 10 minuti non ci sto, mi stacco subito, capito? E allora mollo tutto e preferisco così, chiacchierare più o meno, anche se certe volte sono cazzate, bene, tanto per ammazzare il tempo, ecco, tempo gli arrivo da ammazzare il tempo. Beh, una volta anche io facevo tanto tempo, dalla mattina alla sera, dalla seconda. Mi è sempre piaciuto e mi piace ancora, per cui lo posso, perché la te me la faccio tranquillo, perché, ok, bene, ti chiedo scusa che devo chiudere, dai, un attimino, eventualmente se ci sei, riaccendo quasi 10 minuti, ci sentiamo, dai, buon proseguimento di giornata e alle prossime, ok? Ok, dai, ci sentiamo alla prossima, ciao.